Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati da parte di Antonio Ceccato a questo nuovo appuntamento con Ambiente e Salute per trattare un argomento di rilevante importanza vista la stagione: il medico sentinella. Si parlerà di influenza, si parlerà di altri malanni di stagione con il dottor Umberto De Conto, al quale rivolgiamo subito una prima domanda. In questi mesi di inizio del periodo influenzale abbiamo sentito parlare di medici sentinella. Che cosa sono e qual è il loro ruolo nella società? Intanto cominciamo a dire qualche idea abbiamo della sentinella. Tutti ci immaginiamo la guardia armata di fronte a un presidio di solito militare. Certamente. Che attenta nel buio cerca di vedere se ci sono dei segni, qualche cosa di pericoloso che si sta avvicinando, verso il quale poi mette in atto una sequenza che è la sequenza di guardia, alto là, chi va là, presentarsi. Parole d'ordine, compagnia. Parole d'ordine. Nella sanità non abbiamo tutti questi sistemi così precisi, soprattutto di fronte a un evento ciclico come l'influenza, della quale sappiamo che ha una sequenza cronologica abbastanza definita. Si sviluppa un virus di solito nell'estremo oriente e, seguendo le correnti dei venti, passa poi nell'Oceano Pacifico, arriva nelle Americhe, e da qui arriva poi, dopo qualche mese, in Europa, e dall'Europa entra in genere in Italia. Ma quali sono? È davvero l'influenza? È una banale rinite? Sono altri virus che arrivano? Abbiamo quindi alcuni indicatori: presenza di febbre, di dolori muscolari, di affezioni respiratorie, che ci fanno sospettare. Ecco che allora il medico, che è attento a questi segnali, dice: su queste persone posso approfondire, alto là, chi va là, e vengono eseguiti degli accertamenti ulteriori. Si fa la ricerca nella saliva, nell'espirato dei virus, e si vede se corrispondono ai parametri del virus influenzale che è in giro per il mondo. Il Ministero della Salute ha quindi individuato questi, mi pare siano 600 medici in Italia, che fungono da sentinelle sparsi nel territorio nazionale. Hanno le antenne alzate di fronte a questi segnali, questi fenomeni, a partire da un periodo che può essere settembre-ottobre. C'è un po' la gara anche a vedere chi la trova per primo. Però anche il chi la trova per primo ci dà un'indicazione qual è la via d'accesso che ha seguito il virus in quest'anno. Anche dal punto di vista statistico, se vogliamo. Sì, sì, e anche per capire qual è la via prevalente di trasmissione. Certo, di immissione. In genere avviene nel nord Italia. Genova, Milano e a volte Torino sono le porte d'ingresso del virus, e da questo si può capire se prevale la via i trasporti aerei, le migrazioni degli animali, piuttosto che altre modalità. Ecco che è individuato quindi il concetto del medico sentinella, un medico che normalmente è attento all'informazione, alla raccolta di segnali tra i suoi pazienti, in questo caso avverte anche una istanza più attenta alla comunità e alla difesa degli altri pazienti, per capire se in queste situazioni è da segnalare il caso, da avvertire le autorità sanitarie, oppure semplicemente da stare in vigile attesa. Certo, i modelli di approccio sono due, mi pare di capire, o sbaglio? E questo in generale, dal modello del medico sentinella per l'influenza si è ipotizzato un medico sentinella su molte altre cose. Avendo di fronte una popolazione variegata, si possono cercare di individuare dei segnali del quale non abbiamo ancora precisa cognizione. Ecco i due modelli. Perfetto. Il modello della raccolta dati. Allora, tutti i medici, o molti medici, hanno delle cartelle individuali sanitarie dai quali possono essere derivati dei dati per cui si vede, che so, l'aumento delle patologie infiammatorie, certo, delle quelle infettive, di alcune neoplasie, e questa è la raccolta dei dati. L'altro modello è quello della cosiddetta advocacy, non solo guardo, ma anche cerco di capire e di concorrere a prevenire ulteriori danni. Perfetto. Esistono altre sentinelle nel territorio? Bella domanda. Sì, esistono sicuramente delle sentinelle istituzionali. Abbiamo le agenzie regionali per l'ambiente, l'istituto di sanità, i servizi di prevenzione delle nostre aziende sanitarie. Abbiamo i medici sentinella che ci sono anche qui da noi. Abbiamo anche delle altre sentinelle delle quali forse non ci rendiamo molto conto, spesso conto. Sì. Sono i cosiddetti biomarcatori. La qualità delle acque, la qualità dell'aria sono delle sentinelle assolutamente inorganiche che possono dirci attenzione, c'è un aumento di questi inquinanti. Oppure pensiamo per esempio ai microorganismi. I microorganismi che possono essere sentinelle in due modi. Un cosiddetto microorganismo che agisce per accumulo, si accumula di sostanze e cambia di colore, per esempio, oppure un microorganismo che modifica la sua sopravvivenza perché non trova più l'ambiente ideale per la sua vita. Benissimo, che cosa significa evento sentinella che abbiamo sentito nominare? L'evento sentinella è un qualcosa nel quale abbiamo già dovuto dare l'alto là, chi va là. Quindi è una situazione di aggressione rilevata, un pericolo in essere, mm-hmm, anche se un pericolo che può avere conseguenze di tipo diverso, può essere un evento minore oppure potenzialmente molto grave. L'importanza dell'evento sentinella è collegata proprio alla sua rilevazione. Se mi accorgo che c'è un evento potenzialmente pericoloso, un elemento di pericolo proprio. Questo qui lo devo rilevare e agire di conseguenza per aumentare il livello della mia difesa oppure per cercare di eliminarlo subito, in ogni caso per avvertire la mia comunità: attenzione, c'è il pericolo qui da noi. Quindi questo è fondamentale da un punto di vista anche della la rilevazione tempestiva, diciamo, di questi eventi, è fondamentale anche la trasmissione della conoscenza di questi eventi. Dobbiamo ritornare al concetto della sentinella. Esattamente. La sentinella ha una tabella delle cose alle quali deve stare attenta. Se noi abbiamo una serie di cose alle quali stare attente, possiamo rilevare questi eventi. Perfetto, ci fermiamo un attimo per il brano musicale e poi ritorniamo in studio con il dottor Umberto De Conto. siamo di nuovo in studio con il dottor De Conto per questo approfondimento, diciamo, che è uno spunto di riflessione che lasciamo ai singoli, ai quali ricordiamo la possibilità di riascoltare la puntata e di scaricare eventualmente il podcast della trasmissione dal sito bluradioveneto.it, al quale rinviamo per suggerimenti o richieste. Allora, la domanda che noi facciamo al dottor De Conto è invece: che cos'è un near miss o quasi evento, che sembra quasi da un punto di vista astronomico piuttosto che clinico? Quando sento parlare di near miss mi viene in mente Niccolò Carosio. quasi gol. Allora, sono quelle situazioni di quasi gol, quasi pericolo. Cioè, ci accorgiamo di momenti nei quali sarebbe bastato un piccolo cambiamento delle condizioni e sarebbe diventato un pericolo. Non c'è nessun pericolo, però mi rendo conto che è possibile una sequenza di eventi che, esatto, potrebbero determinare una collisione, diciamo, esatto, con il pericolo. Esatto. Nei film americani si vede spesso il concetto della tempesta perfetta, dell'incendio perfetto, sì, cioè cose che di per sé non sarebbero sufficienti a determinare un pericolo grave, invece mettendosi assieme possono determinare una catastrofe. Il near miss è qualche cosa che richiede da una parte la fortuna di accorgersene, ma dall'altra può essere individuato se metto in atto una rete, un collegamento di persone che mettono assieme le loro informazioni e possono far emergere il dato che altrimenti non sarebbe significativo. Possiamo dire un protocollo? Protocollo significa già una cosa istituzionalizzata. Istituzionalizzata, ecco. Condivisione di informazioni. Se lei si accorge che uno dei cimici che ci hanno assalito in queste settimane era blu anziché marrone, grigio o verde, esatto. Lei se ne accorge. Se ci accorgiamo che lei le parla con il suo amico che abita a 5-10 km, anch'io ho visto un cimice blu. Dall'altra parte è un cimice blu, insieme si può cercare di vedere cosa vuol dire che ci sono i cimici blu. Chiaro. Ci sono dei casi anche simpatici. Ricordo alcuni anni fa in Francia un agricoltore si è accorto che le sue api facevano il miele, guarda caso, blu. Un altro agricoltore alcuni chilometri distante si è accorto che le sue api facevano un miele marrone scuro. Si sono parlati assieme, hanno pensato naturalmente all'utilizzo dei diserbanti con cimicimici, viene spontaneo. Però mettendo assieme le loro informazioni hanno concentrato l'area nella quale andare a cercare l'origine di questo colore ed è risultato che c'era un deposito all'aperto di una grande industria dolciaria che fa quelle mentine colorate, che aveva avuto degli scarti di produzione e li aveva deposti all'aperto. D'altra parte, si diceva, sono biodegradabili, anche se, vero, di origine chimica. Esatto. Le api erano state attratte dai colori e il colorante delle mentine era andato a finire nel miele di queste persone. Fine. Certo. Il near miss ci fa alzare le antenne e ci fa chiedere comunque che cosa c'è sotto. È possibile pensare a un accumulo di eventi che portano un rischio? È possibile evitare la sequenza di eventi? Stiamo attenti. Principio di precauzione, naturalmente. Questa è la domanda delle 100 pistole. Questa è una grande questione. Il principio di precauzione, tra l'altro, è stato anche codificato in diverse riunioni internazionali. L'ultima mi pare quella sul clima a Rio de Janeiro, nel quale è proprio stato codificato: nel momento nel quale non so bene che cosa possa succedere, il principio ispiratore della mia azione è stiamo attenti, non aspettiamo che succeda qualcosa per poi correre ai ripari. In base a questo principio l'atteggiamento è quello di proprio della precauzione. ragioniamo come se fosse pericoloso anziché come se fosse benefico, certo, salvo prova contraria. Giusto, è un'inversione dell'onere di prova, diciamo. Potremmo in futuro parlare anche di cittadini sentinella, quindi una diffusione sempre col significato di sentinella della natura e della salute, naturalmente, non di delatori o cose di questo tipo. Questo è andiamo molto avanti, certo. È certo che tutti noi possiamo essere sentinelle in casa nostra. Il Ministero per l'Ambiente già alcuni anni fa, se non ricordo male, aveva proposto un decalogo dei comportamenti, delle cose alle quali stiamo attenti in casa per evitare rischi personali ma anche per concorrere a un miglioramento complessivo dell'ambiente. Il principio di partenza era questo: ricordati che se una sostanza tossica va nell'acqua, poi si precipita nell'acqua perché è pesante, ma cade nel fango di fondo, qui viene assorbita dalla vegetazione acquatica, il pesce piccolo la mangia, il pesce grande mangia il pesce piccolo, alla fine quella sostanza probabilmente tornerà sulla tua tavola. Catena alimentare. La catena alimentare alla quale tutti dobbiamo fare attenzione. E poi fare attenzione all'utilizzo delle sostanze di origine chimica nelle nostre case. Le plastiche, i rivestimenti antiaderenti, sapete, immagino, esatto, che abbiate già parlato dei cosiddetti PFAS. PFAS. Quelle sostanze che rendono antiaderenti, molte rendevano, perché adesso loro utilizzo fortunatamente, esatto, è molto ridotto, limitato. Ma pensiamo anche ai rivestimenti delle nostre auto. Vero. Tutte le fodere antifuoco, i rivestimenti ignifughi della tappezzeria delle nostre macchine sono imbevuti di queste sostanze ritardanti, e quindi la imbottitura lacerata ci deve dire: forse è il caso che cambi la macchina, ma prima di cambiarla cerco di riparare perché potrei respirarla. Giustamente. Le possibili evoluzioni del concetto di evento critico per il futuro, diciamo così. Grandi linee. L'evoluzione è collegata a quella dei cittadini sentinella. Se evitiamo quello che adesso è in uso, cioè i cittadini sentinella semplicemente per la sicurezza del loro quartiere, ma entriamo nell'idea di cittadini che si collegano per guardare all'ambiente in generale e mettono insieme le loro informazioni, esatto, potremmo davvero costituire una rete che rileva alcuni segnali molto prima che raggiungano l'evidenza importante, certo, e si possono mettere in atto degli accertamenti, adottare un principio di precauzione e soprattutto costituire un bagaglio di conoscenze che sarà utile non solo a quel quartiere ma a tutti noi. I big data di cui si parla tanto, e chiaramente le reti sociali, che potrebbero, anziché essere usate per il solito chiacchiericcio vuoto, potrebbero essere usate per cose molto più importanti e dare immediata attuazione a queste reti di protezione. Sapendo che dobbiamo superare proprio l'idea della delazione e cogliere gli errori nostri o della natura, come dice Popper, è il motore per la crescita delle conoscenze. Perfetto, noi ringraziamo il dottor Umberto De Conto per questa trasmissione e diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie. Ambiente e salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.